versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, martedì 1° di aprile, però noi non facciamo la trasmissione pesce di aprile perché ohimè pesci di aprile ci vengono riservati ogni giorno da questi andamenti che ancora non confermano che l'economia italiana ha girato pagina. Oggi è uscito l'aggiornamento dell'Istat dei disoccupati nel nostro paese e la cifra generale di disoccupazione su totale forza di lavoro sale al 13%, quindi torniamo indietro alla fine degli anni 70, quella giovanile 15-24 anni, ripeto a tutti coloro che sono in ascolto, la percentuale di disoccupati giovanili è relativa a quelli che tra i 15-24 anni cercano attivamente lavoro, non è sul totale della popolazione tra i 15-24 anni, ma tra coloro che tra i 15-24 anni cercano attivamente lavoro, il 42% non lo trova, che è una percentuale veramente disastrosa, cioè dopo la Grecia e la Spagna ci siamo noi. Allora, questo è l'aggiornamento quotidiano, il termometro reale dell'economia italiana. Ho il premier Matteo Renzi stamattina in visita a Londra, David Cameron ha ottenuto un fortissimo sostegno del premier britannico che ha detto molto a favore dell'energia, delle riforme di Matteo Renzi, e insieme anche dichiarazioni, non c'è da stupirsi visto che a Londra sono molto euroscettici, per cambiare l'Europa, questa Europa è diventata l'Europa delle burocrazie, ha perso il cuore, ha detto Matteo Renzi. Però siccome il nostro ruolo è quello di continuare a segnalare le cose che non funzionano, non solo quelle, non lo facciamo per scelta, ma di dar voce a quelli che hanno problemi, oggi vi presentiamo due casi, per questo chiamate all'800 24 00 24, di imprese, piccole imprese che continuano ad avere problemi da una parte con la rateazione degli impegni fiscali. Sapete che nel governo Letta si è proceduta una rateazione fino a 120 rate con Equitalia, ma vi presentiamo tra poco un caso che faceva esattamente a pugni fino a poche ore fa con questa cosa. E il secondo caso sarà relativo al DURC, quindi chi ha problemi con la rateazione Equitalia con il DURC chiami pure per dirci come la pensa, se davvero sono cambiate le cose, più favorevoli alle imprese esposte oppure no, come sembrerebbe da questi due casi. Allora, il primo caso che vi presento subito, il nostro primo ospite, è quello di un imprenditore edile che fa parte della rete Sì, Salviamo l'Italia, e il suo nome è Fabrizio Martini, e vi leggo la lettera in base alla quale abbiamo immediatamente deciso di dargli voce proprio oggi. Perché nella lettera ci scriveva testualmente questo: giovedì 27 marzo si sono presentati due ispettori di Equitalia che, per voler pignorare tutta l'azienda, i bilanci, i conti correnti, i patrimoni, in base all'articolo 35 del decreto 223/2006, quindi dovevano pignorare tutto, essendo in debito con loro di una cifra di 80.000 euro, che però stiamo cercando di rateizzare in questi ultimi mesi. Abbiamo tutti i contatti, le richieste fatte in Equitalia e all'Agenzia delle Entrate. Presentatesi il 27 di marzo, quindi pochissimi giorni fa, i due ispettori di Equitalia hanno detto che sarebbero tornati oggi, il 1° di aprile, alle 10, per procedere appunto al miglioramento generale. Ecco, di fronte a questo, che è stato anche pubblicato da un giornale, Barriera Prealpina, noi abbiamo immediatamente telefonato per dire venga in trasmissione a dirlo, e aggiungeva poi nella sua lettera Flavio Bottarini, perdonatemi, ho sbagliato il nome, che l'ho confuso con il secondo ospite, colpa mia, me ne scuso con voi in ascolto e con lui. E nella lettera Flavio Bottarini ci diceva: nella realtà se mi pignorano, io vivo in affitto in un appartamento con tre figli e moglie, la casa me l'hanno già tolta le banche, è all'asta, ho sempre lavorato solo sodo per pagare tasse e debiti e costruire un futuro, non mi nascondo, tant'è vero che appunto avevo fatto presente che dovevamo rateizzare. Ora non saprei come fare, perché se mi pignorano l'azienda è finito tutto, naturalmente. Allora è qui con noi oggi pomeriggio e lo ringraziamo, Flavio Bottarini, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, Oscar, grazie allora, per avermi chiamato. Innanzitutto, stamattina con gli ispettori di Equitalia com'è andata? Benissimo. Ah, benissimo. Cioè grazie all'articolo che è uscito domenica della Prealpina mi hanno contattato subito e vogliono mi propongono la rateizzazione. Quindi a qualche cosa, dare voce, vedete perché lo faccio sistematicamente, segnalare in pubblico i casi può effettivamente servire, perché innanzitutto i colleghi della Prealpina hanno potuto farlo subito, mentre io domenica non ce l'ho, ma io sono felice di questa cosa qui, quindi segnalateci i casi voi che siete in ascolto, perché vedete che poi alla fine la burocrazia spesso non vede, poi diventa un caso pubblico e guarda caso ci vede. E quindi hanno detto esplicitamente che può rateizzare perché l'avevano letto sul giornale. Sì. Perché prima abbiamo fatto la richiesta della situazione debitoria della ditta. Sì. Dovevamo iniziare a fare la pratica e presentarla loro, ma in realtà sono arrivati prima loro. E se non ne usciva l'articolo sulla Prappina, io oggi la ditta l'avevo chiusa. È pazzesco. Al 100%. Flavio, io naturalmente sono felice per lei, ma mettiamoci nei panni dei tanti suoi colleghi che naturalmente no, magari non gli passa per la testa o non ci riescono a far uscire un articolo e esatto. Che a quel punto vengono pignorati. Cioè, è ovvio che cambiava tutta la sua storia sì. Oggi. Sì. Ecco, sì. Noi quando l'abbiamo chiamato non l'avremmo saputo. Perché mi hanno detto oggi a mezzogiorno. Ma posso farle una domanda? Quando le hanno comunicato stamattina ratizziamo, lei gli ha detto ma perché? Cos'è No, aspetti, non ratizziamo. Ah. Presenti la domanda di rateizzazione. Presenti. Non ha ancora la conferma certo. Che loro rateizzano. Ah, ecco, quindi le hanno dato una sospensiva, non la certezza, per esatto. Così dire. È una bella differenza. Ah, sì, direi di sì. Verrà approvata successivamente. Se no la mia situazione non cambia. Che pazienza che ci vuole. Senta, dipendenti come l'avevano presa? No, l'unico dipendente sono io ora. Perché gli altri due dipendenti che avevo tutti licenziati l'anno scorso causa la gente di grandi aziende che non mi pagano. Lei nel settore? In realtà, carpetteria metallica. Ahia. Yeah. E comunque il lavoro sta cominciando a risorgere. Ah, ecco, c'è qualche segnale positivo? Sì, ci sono veri segnali positivi di clienti storici che hanno sempre pagato. E quindi era ancora più paradossale chiudere, pignorare e chiudere adesso. Cioè adesso io inizio alle 5:30 al mattino, smetto alle 8 di sera e grazie a Dio c'è da lavorare. Se no sarebbe un paradosso. E per la casa invece? La casa l'ho già persa da un pezzo. Oramai siamo rassegnati su quello. Non senta, possibilità. Posso chiedere un secondo? I tre figli quanti anni hanno? 25, 16 e 5 anni. Allora, quello di 5 anni è piccolo e lasciamo da parte, ma quello di 25 e quello di 16, di fronte la alla... La figlia grande di 25 anni, sì. Laureata, fantastica. Ecco, ma di fronte alla crescente difficoltà che arrivava fino appunto a perdere la casa e al pignoramento con chiusura totale, che fino a stamattina era lì incubo pendente, sì. Come l'hanno presa? Posso chiedere lei come ha affrontato con i suoi figli questo problema? Bene dell'anima, né più né meno. Avanti, lottare, come mi ha sempre fatto finora. Perché lei lo sa che tante volte ce ne siamo occupati in questi anni e magari ci sono tanti suoi colleghi che si sono trovati di fronte alla disperazione e sono arrivati a dei gesti estremi. E io ho sempre criticato che mai lo Stato si è fatto vedere poi ai loro funerali. Che cosa è, secondo lei, che ci è arrivato vicinissimo per un pelo e speriamo che poi la rateizzazione gliela diano? Ma che cos'è che può fare la differenza tra non perdere definitivamente la testa e dire invece come lei ha fatto e ci ha appena ripetuto andare avanti e lottare? Che cos'è che poi uno... A cosa fa appello uno per andare avanti? La famiglia. La moglie, i figli, mia madre e le mie sorelle. Semplice. C'è stato qualcuno che le ha detto hai fatto il passo più grande della gamba, ma ci dovevi pensare prima? Le banche. Naturalmente. Le banche, né più né meno, sempre loro. Le banche non sono imprenditori, siamo noi imprenditori. E le posso chiedere, ha avuto qualche, da parte delle banche con cui era esposto, ci sono andate con una mano un po' leggera capendo oppure sono stati rigorosamente implacabili? Quando abbiamo perso la casa c'erano 5 banche in tribunale che non gliene fregava assolutamente niente dei miei figli, mi creda. E il giudice ha detto semplicemente vai via subito, sennò questi ti portano anche via la famiglia. Ed erano banche, posso chiederglielo, con cui lei aveva un rapporto storico negli anni, insomma, lei da quanti anni lavora? Lavoro io da 25 anni. Da 25 anni, quindi la conoscevano prima della crisi come un buon pagatore, eccetera, eccetera. Grande pagatore, ma ho subito un'azienda, avevo 15 dipendenti, investimenti non finire, più di quasi 2 milioni di euro di esposizione, fatturato ottimo, alla fine non mi ha pagato uno e le banche mi hanno messo tutto il rientro e io ho chiuso. Una parte di azienda. E da quando ha ricevuto il preavviso di rientro bancario a quando poi è scattato operativamente, quanto tempo è passato? Quando mi hanno messo la casa all'asta, ma diciamo subito. Anzi, il preavviso me l'ha dato il mio fornitore, perché oggi io non ho ancora avuto il preavviso dal tribunale che la mia casa sarebbe andata all'asta, a oggi. Ringrazio anche quel fornitore qua. Posso farle una domanda? Ma lei è iscritto a qualche associazione? Ha avuto da questo punto di vista... Che gli artigiani? No, nessun aiuto. Nel passato, adesso Confindustria mi sta dando una grande mano. Confindustria? Sì. Ah. Confindustria. No, giuro che non lo sapevo, adesso è un po' ridicolo che io abbia fatto questa considerazione, questa è anche la radio di Confindustria, però non me l'aspettavo, scusi. Mi ha chiamato subito ieri mattina per sapere cosa era successo, appena ho visto l'articolo. Ah, ecco, quindi ancora una volta è l'informazione che ha... È l'informazione che sta muovendo tutto. Che ha fatto la differenza. Sì. E i tempi che le hanno prospettato a questo punto quanto sono lunghi? Per rientrare dal debito con Equitalia? Sì. Ma speriamo che me lo diano subito la realizzazione, iniziamo a pagare subito. Qual è il problema? Ma io la vedo, francamente, sono ammirato, perché io ho avuto personalmente nella mia piccola società un 2013 disastroso per colpa di quello, del fatto che non mi pagavano, e poi anche dell'errore gravissimo che avevo commesso io, e io non ho dormito per mesi e mesi e mesi, perché avendo rateato tutto il rateabile mi sono trovato a dover prendere delle decisioni, per così dire. Però francamente sono felice di averla chiamata oggi, che la cosa è risolta, ma soprattutto perché, se accetta questo mio commento, anche se non ci conosciamo, se non adesso, Flavio, il tono con cui sta parlando è esattamente il tono che secondo me molti hanno bisogno, nelle sue analoghe condizioni, di sentire pronunciato da parte di qualcuno che se la vede brutta, come lei se la vede brutta pur lavorando da 25 anni. Cioè il tono con cui dice: io non mi arrendo, vado avanti, ho creato un caso, si devono piegare, pagherò come ho sempre pagato, però io non mi arrendo. Allora, Flavio, se accetta questo abbraccio, ma non da parte mia, da parte del pubblico di Radio 24, quello che le possiamo dire è che per i troppi casi come i suoi, noi siamo qua per questo, perché serviamo esattamente a questo, e non abbia nessuna preoccupazione a rifarsi vivo pubblicamente, anche in privato, perché siamo qua per seguire i casi come i suoi. Grazie infinite, speriamo che tutto le vada bene e buona giornata. Intanto noi adesso abbiamo però i 60 secondi di traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:47, primi 20 secondi. E, una storia ogni tanto che ha preso una svolta positiva, quella che ci ha raccontato Flavio Bottarini. Stamattina ha rischiato che gli pignorassero l'impresa, 15 dipendenti licenziati, la casa se n'è già andata nelle mani delle banche, che non hanno naturalmente fatto nessuna eccezione al fatto che era un buon pagatore da 25 anni, e la sua è andata bene. Allora, in questa seconda parte della trasmissione parliamo di un altro sviluppo, per così dire, che in teoria dovrebbe migliorare, perché dopo che soprattutto le imprese storie edile, ma non solo loro, in questi anni hanno fatto presente allo Stato più e più volte la contraddizione del DURC, cioè la dichiarazione di regolarità contributiva, che spesso finiva per impedire alle imprese in difficoltà e che pubblicamente avevano dichiarato per questo di essere indietro con i pagamenti e i contributi, ma non le mettevano in condizione di non poter più lavorare, quindi non poter alimentare con nuovi flussi di cassa, anche in presenza di ordini, la possibilità di rimettersi in regola, quindi sanzionavano la fine, la morte dell'impresa stessa. Ecco, da questo giorno, da questo 1° aprile 2014, c'è una modifica che scatta proprio per il sistema di gestione del DURC, e su questa modifica abbiamo ricevuto tantissime lettere, ed è qui con noi per parlarci appunto un imprenditore edile. Io prima, sbagliando invece di Flavio Bottarini, ho fatto il suo nome, e invece è qui con noi in questa seconda parte della trasmissione, che anche lui ci ha scritto una lettera molto carica di pathos, spiegandoci, fatemi parlare di che cos'è questa modifica del regime del DURC, perché vedrete che è una modifica che ha effetti totalmente opposti rispetto a quelli favorevoli alle imprese in difficoltà, per cui è stata presentata dalla politica. Quindi buon pomeriggio e grazie di essere con noi qua, Fabrizio Martini, appunto imprenditore edile che fa parte della rete Sì Salviamo l'Italia. Buon pomeriggio. Buongiorno Alessio, Giannino e tutti gli ascoltatori. Allora, tenti di spiegare a chi non è un tecnico, quindi non ha ben chiaro, non ha letto sul sole, non segue le cose tecniche, magari non è un imprenditore, certo, dire, eccetera eccetera, in che cosa consiste questa modifica che entra in vigore da oggi e perché ha effetti negativi. Posso fare una piccolissima premessa? Certo. Sui dati che lei prima ha dato. Sì. Allora, l'anno scorso lo settore edile in Italia ha perso il 7,1%. Sì. Quest'anno da gennaio ha perso il 7,9%. Esatto, quindi siamo a un tasso di accelerazione della, esatto, perdita. Nel, e se poi andiamo a confutare col discorso dei giorni lavorativi, passiamo all'11%. Esatto. Cioè, non è proprio bazzecole, bazzecole, bazzecole. Adesso che andrà in noi, tanto per dare un altro dato per far riflettere chi è a casa, se pensiamo invece al 2007, cioè andiamo al pre-crisi, pensate che il settore dell'edilizia in Italia è ha un valore aggiunto inferiore del 54%, cioè stiamo parlando di più del 50% di quello che era il contributo al valore aggiunto del PIL, storia edile che è sparito in questi anni. Vabbè, però guarda, poi ci dicono facciamo terrorismo, ma l'edilizia produce quasi l'11% di PIL. Esatto, esatto. Da solo in Italia, è un 12% in Europa, quindi insomma sono numeri importanti, altro non è che non dà da lavorare. Ci sono 27.000 aziende, imprese edili in Liguria, di cui tre quarti sono artigiane. Attenzione, prima di dire, cioè sono numeri veramente importanti. Altro che. Nell'economia contano tantissimo, e in questo momento è il settore con la maggior crisi. Esattamente. E di conseguenza è crisi che porta anche nel comparto, nei stessi professionisti, sì, dove sì, stanno chiudendo un sacco di uffici. Certamente, la sua è un'impresa di dimensionalmente quanti sono? Noi eravamo all'inizio dell'anno 9 persone, sì, attualmente alla data di oggi, quindi da ieri siamo rimasti in 6, in 5. Però qualche primo segnale di ripresa degli ordini dei lavori c'è oppure no nel settore vostro? No, qui non ne vedo esattamente in zona, anzi dall'inizio dell'anno sono in una zona del Liguria dove abito io, hanno già chiuso 23 imprese. Noi tra l'altro la Liguria è molto legata alla Lombardia, essenzialmente il cliente che compra qui le case, le seconde case sono essenzialmente lombardi, piemontesi, certo, quindi diciamo parte del cliente estero, ma anche quelli li stiamo perdendo. Ma voi lavoravate anche per piccole opere appaltate o realizzate dagli enti locali che non pagano? No, io non per esempio, lavoro, ecco il grosso problema. Noi per esempio non lavoro, il grosso del lavoro viene fatto dalle imprese artigiane che fanno lavori privati, o cosiddetti appalti privati. Certo. Gli appalti pubblici, e lei l'altro giorno ha avuto il dottor Buzzetti nel telefono, purtroppo anche l'ANCE e le zone categorie importanti, la Soedil, parlano solo di appalti, ma in realtà, e quindi di pagamenti della pubblica amministrazione, esatto, ma il grosso del lavoro viene fatto nei contratti privati. Privati, sì. Il grosso problema sono dove non siamo tutelati, sono i mancati incassi da parte di impresa con i privati. Non c'è una legislazione. No, infatti stiamo lavorando, siamo in tre colleghi, stiamo cercando di portare in 10ª commissione, in 7ª commissione, tre proposte di legge per vedere se riusciamo a cambiare questa situazione. Come all'estero, d'altra parte. Sì. No, perché in teoria nel recepimento della direttiva sui tempi di pagamento europeo la cosa riguarda sia i pubblici che i privati. Poi in realtà c'è stata una normativa ad hoc, questo già più di un anno e mezzo fa, con la finanziaria dell'anno scorso, articolo 62, non per il 2014, sì, finanziaria 2013, che ha riguardato la filiera alimentare. Non ce n'è una ad hoc per quello che riguarda voi, e questo, quindi, no, questo era il riferimento che stava facendo per tentare di sensibilizzare il Parlamento su questo. Addirittura avevano fatto una legge sui condomini dove l'amministratore doveva recuperare, acquisire tutto l'importo dei lavori straordinari prima di iniziare i lavori, in modo tale che l'impresa fosse tutelata. Bene, hanno cambiato anche questa, è la legge 220 del 2013, hanno cambiato anche questa, adesso si dice che l'amministratore può richiedere l'equiparazione dei soldi in funzione del SAL, il SAL è lo stato avanzamento lavori. Cosa vuol dire? Che io quando presento il SAL all'amministratore del condominio e sono già 2 mesi che ho fatto i lavori. Certamente. Allora mi fermo un secondo perché c'è un appello che ci viene con molti sms da alcuni ascoltatori, forse organizzati tra loro, ma li ringrazio perché così mi è ancora più chiaro, che ci chiede di occuparci, lo farò, prendo impegno con voi per questo, per vedere di sensibilizzare qualcuno, di portare quindi qualcuno del governo a cui fare la domanda se esiste una prospettiva per la protrazione del termine, che è quello del 31 maggio attualmente, il termine previsto per le cartelle non reattive di Equitalia, per vedere di ottenere un'altra proroga. Lo farò, prendo un impegno formale, tentiamo di portare un sottosegretario competente del MEF o il viceministro Enrico Morando. Nei prossimi giorni ce ne occupiamo e grazie per avercelo segnalato. Allora, io sintetizzo questa modifica del DUR che scatta da oggi, cioè perché da oggi appunto, grazie alla messa in rete di tutte le banche dati, che cosa avviene? Che chi non regola con il DURC si trova ad avere uno scatto ancora più automatico della segnalazione di allarme temporaneo, come si chiama, quello del semaforo giallo per chi non regola i contributi, che viene data a questo punto al datore di lavoro, a chi lo rappresenta per tutti gli adempimenti eccetera eccetera, mediante posta elettronica certificata con l'indicazione dell'irregolarità riscontrata, l'invito a regolarizzarla in 15 giorni e l'avvertenza naturalmente che passati questi 15 giorni c'è a quel punto la generazione di un DURC interno negativo. Il problema è la telematizzazione rischia di avere come effetto quello di essere un capio al collo ancora più efficace nell'impedire di lavorare a chi è in difficoltà, è così? Assolutamente sì, perché adesso praticamente nel cassetto previdenziale verranno inserite anche tutte le posizioni contributive, per esempio l'RDM, se io e lei Giannino fondiamo la società e io ho un pregresso con l'INPS e lei giustamente non poteva saperlo, certo, e io non gliel'ho detto, quando domani vado a richiedere il DURC, cosa succede? Che all'interno del cassetto previdenziale verrà riportato il pagamento, il mancato pagamento che ha eseguito il signor Martin, automaticamente l'impresa che abbiamo fondato io e lei non potrà richiedere, non avrà il DURC, quindi il DURC positivo, per poter accedere ai contratti o pubblici o privati. Tenga presente che nei lavori privati bisogna assolutamente presentare il DURC. Certamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tanti artigiani hanno, o tante SNC, hanno chiuso nei passati non solamente perché non volevano pagare, ma perché difficoltà economiche dovute alla crisi, mancati incassi, hanno fondato assieme ad altri delle società e adesso si ritroveranno al punto di partenza che o nei 15 giorni tu paghi, anzi è un ricatto, perché l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, non è che chiede all'impresa, alla società nuova, di pagare per conto del signor Martin o del signor Giannino, ma ti dice, guarda, tu non dovrai assumerti l'onere di pagare quel debito, ma io non ti faccio lavorare se quel signore prima non salda il suo debito. Io spero che per voi che siete a casa e non avete pratica con queste cose vi sia chiaro quello che succede. Una norma che serve per fare efficienza ottiene l'effetto opposto di aggravare le difficoltà. Non so se è chiaro abbastanza, ci torneremo sopra perché è un apparente paradosso, ma in realtà si capisce come l'attuazione di queste norme e l'amministrazione dello Stato tende sempre a tutelarsi lei, non a dare una mano alle imprese che sono in difficoltà. Grazie quindi a Fabrizio Martin, continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.